Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. L'Iraq sembra sul punto di precipitare in una catastrofe politico-militare. I militanti armati dello Stato Islamico in Iraq e nel Levante si sono spinti in tutti i principali centri del nord del paese. Erbil, Kirkuk, Tikrit sono giunti fino a Samarra. Nel frattempo gli Stati Uniti fanno entrare nel Golfo una portaerei. Toccherà a Barack Obama decidere di intervenire con bombardamenti aerei o di droni. L'intenzione dei guerriglieri dell'ISIS è proprio quella di colpire il cuore dell'Iraq. L'esercito iracheno cerca di respingere l'avanzata dei jihadisti sunniti verso Baghdad. I profughi ormai fuggono a centinaia di migliaia dalle zone dove in questi giorni è stata alzata la bandiera nera jihadista. Mentre l'aviazione irachena inizia a bombardare alcune zone di Mosul. Almeno in 500.000 sono in fuga dalle loro case, la metà sono bambini. E l'Iran fa sapere di non escludere la possibilità di collaborare con Washington contro gli islamisti. Le principali operazioni di guerra in Iraq sono finite. Gli Stati Uniti e i loro alleati in Iraq hanno vinto. Il tiranno è caduto e l'Iraq è libero. Professor Sergio Romano, buongiorno. Era Bush 11 anni fa e diceva, l'abbiamo sentito, la guerra è finita, abbiamo vinto. Che cosa non aveva capito? Non aveva capito che l'Iraq era in realtà una costruzione molto complicata, voluta da Saddam Hussein, perché la minoranza sunnita era la sola che, su cui lui potesse fare affidamento, e gli sciiti dipendevano un po' troppo dall'Iran. Lei, professore, ha scritto un libro, Morire di democrazia. È il caso degli Stati Uniti? La democrazia non è meno malata, forse qualche volta un po' di più di quanto sia altrove, ma credo che ci sia nella democrazia americana in questo momento qualche cosa di ancora più grave di una semplice malattia della democrazia. C'è l'odio per il presidente è detestato da una parte importante del paese e temo che in questo odio ci sia anche un'inconfessata componente razzista. Professore, Bush voleva esportarla comunque la democrazia, si può esportare la democrazia oppure si può solo morire di democrazia, magari anche per colpa di questo razzismo strisciante? Esportare la democrazia è sempre stato lo slogan di cui alcuni governi, in particolare quelli americani, si sono serviti quando volevano dare alle loro politiche una particolare dignità, un particolare decoro, una nobiltà per così certo. dire. E poi naturalmente dietro questa frase c'erano interessi e obiettivi strategici. Ecco, professor Romano, ma non ha funzionato questa esportazione per ragioni militari o politiche? Credo per ragioni di pregiudizi ideologici. Pensare che il nostro sistema, creato nel corso dei secoli in una particolare parte del mondo che ha fatto determinate esperienze, possa essere utile necessariamente a tutti, beh, questa è una specie di credo. È una presunzione, trasforma la politica in una missione, in una crociata. Professor Romano, sul piano militare, comunque, Obama ha dichiarato la sua impotenza, non sa che fare. Secondo lei esiste ancora un'opzione militare in Iraq? Innanzitutto questa è una grande operazione di comando. Quando 1.500 uomini si battono contro 800.000 forze di polizia e 300.000 soldati delle forze armate, ma che cos'è, guerra? O non è una grandissima operazione di comando fondata soprattutto sulla complicità di una parte della popolazione e sulla totale impreparazione di un esercito che gli americani credevamo avevano addestrato alla guerra? Professore, sul piano politico però, il segretario di Stato Kerry si dice in qualche modo favorevole a un accordo con l'Iran addirittura, è una mossa disperata? Per la verità c'è già stato all'epoca dell'Afghanistan, anche se non fu confessato, e comunque i due paesi ormai hanno degli interessi, non tutti evidentemente, ma degli interessi in comune. A me sembra che sarebbe l'unica cosa di buon senso che valga la pena di fare. Quindi è una cosa possibile? Ho detto fare, ma avrei dovuto dire tentare. Tentare, ecco. Obama però al contrario dice che il governo iracheno deve risolvere questa situazione da solo. C'è un contrasto di linea nell'amministrazione americana? No, che il governo iracheno debba a questo punto prendere atto del fallimento della sua politica, sì, è nell'ordine delle cose ed è giusto dirglielo. Bisognerà vedere naturalmente se è in grado di farlo così tardi e in queste circostanze che sono diventate piuttosto drammatiche. Hanno creato un esercito clientelare, hanno creato un stato clientelare, hanno estromesso una parte della popolazione e questo era destinato ad accadergli. Senta, professore, ma allora era meglio lasciare Saddam Hussein? Ma per la verità era la scelta che avevano fatto in molte altre circostanze. Certo, infatti. Avevano capito, qualche presidente lo aveva capito, che Saddam Hussein rappresentava comunque una stabilità nella regione che non andava sottovalutata. Naturalmente non era simpatico e faceva cose che a noi non piacevano, ma forse teneva l'ordine là dove soltanto una persona o quel regime erano in grado per il momento di farlo. Professor Romano, il fallimento comunque ormai acclarato delle primavere arabe, la conseguente avanzata degli integralismi, ne stiamo parlando, sono il segno definitivo dell'insufficienza della cultura geopolitica degli Stati Uniti? Ma per la verità dovremmo anche giungere alla conclusione che nel mondo arabo purtroppo lo Stato arabo musulmano è fallito e questo sì, per molti aspetti è una responsabilità di chi non ha saputo indirizzare quel mondo verso degli obiettivi più concreti, più pragmatici, più realisti, più conformi alle loro abitudini e alle loro culture, ma hanno una grossa responsabilità anche loro. Ma se c'è stata, professore, un'egemonia imperiale americana, e certamente in qualche modo c'è stata, è finita? Io ho l'impressione di sì, però questi processi non sono mai molto rapidi, sono piuttosto lenti, sono quasi generazionali e naturalmente quello che conta è ciò che accade lungo la strada. Professore, un'ultima cosa, comincia l'era Putin anche in Medio Oriente? Ma Putin ha i suoi problemi naturalmente, però Putin ha un disegno strategico che tutto sommato è più riconoscibile, più concreto e tutto sommato corrispondente agli interessi del paese. Naturalmente la Russia sta diventando molto più giovane, molto più energica, molto più bisognosa di libertà e questo Putin fa fatica ad accompagnarla lungo questa strada, però Putin è la Russia. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666. Mario, una cosa mi ha colpito di quello che ha detto, sì, il professor Romano: lo strisciante razzismo nei confronti di Obama, pensi che sia un problema vero in America oggi? C'è, non una cosa di grandi dimensioni, negare che ci sia sarebbe sbagliato, ingigantirlo però sarebbe francamente ingeneroso nei confronti di una grande democrazia qual è quella americana. Poi però l'opposizione del presidente è molto forte, molto forte. Posso testimoniarlo. È ampia, certo. Ecco, Pietrangelo, ma allora assisteremo a questo rapporto Stati Uniti-Iran strategico? Come diceva lo stesso Sergio Romano, è una vicenda che a livello sotterraneo c'è sempre stata. Gli iraniani hanno una cultura della diplomazia e della politica molto sofisticata e molto raffinata, malgrado la propaganda nostra ci dia un affresco fosco rispetto a quelli che possono essere le intenzioni della Repubblica iraniana. La questione è molto più sofisticata perché gli americani, come dicevi tu, difettano di maturità geopolitica e quella realtà è molto più complicata, anche perché c'è una catena di fatti che è difficile adesso da districare, perché bisogna andare all'origine, quando ci fu la guerra Iran-Iraq, e cioè quando Saddam era alleato degli Stati Uniti. Dopodiché, in epoca recente, abbiamo assistito alle cosiddette rivoluzioni, certo, ma a dei passaggi delicati, complicati, e sono in due scenari. Uno nel Mar Caspio, dove i Wahhabiti, cioè i fondamentalisti più assetati di sangue, vengono foraggiati dall'Occidente e arrivano a creare un problema in Cecenia, e dove fino all'altro ieri gli stessi Wahhabiti si ritrovano in un terreno qual è quello siriano, e cioè nell'unico punto d'approdo dove nel Mediterraneo la Russia ha i suoi interessi. Si scherza, certo, troppo col fuoco e si pretende di manovrare, manipolare il fondamentalista, l'integralista, il fanatico, con l'idea che questo va in quella direzione. Possa essere in quella direzione. E tutto questo, dalla guerra Iran-Iraq fino a oggi, è la controprova di come sia difficile tenere a freno questa brace. Certo. Beh, noi continueremo naturalmente a seguire l'evoluzione dell'Iraq, perché indirettamente naturalmente riguarda tutti noi. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666. Ma adesso parliamo del nettare degli dèi. Lo sbarco della flotta garibaldina è protetto dal vino. Le navi borboniche Stromboli e Capri non attaccano i piroscafi dei Mille per non rischiare di colpire due navi inglesi che sono ancorate in porto e stanno caricando botti di vino Marsala dinanzi agli stabilimenti Ingham e Woodhouse. E a Garibaldi, dopo lo sbarco, viene regalato un cavallo bianco, subito ribattezzato Marsala. I mercanti inglesi prima scoprirono il porto, poi lo sherry in Spagna e infine arrivarono fino a Marsala per fare dei vini liquorosi che erano molto apprezzati dal mercato britannico del 700 e dell'800. La mia famiglia opera nel vino da 5 generazioni e questo ci fa onore. 5 generazioni vuol dire 1851 e quindi io posso dire che il mio avo, Diego Rallo, offrì un carico di vino all'esercito di Garibaldi. Supportarono, finanziarono Garibaldi, ci credettero. Carpanè Malvolti è una delle più vecchie aziende italiane, fondata dal mio bisnonno, che a un certo punto ha abbandonato tutto per unirsi a Garibaldi. Mio nonno Ferruccio a 17 anni è andato a fare il guerrigliero con Garibaldi nella campagna del Trentino. Se combattiamo l'Austria, che è vista largamente come un paese di produttori di birra e di bevitori di birra, il vino è un forte elemento di identità nazionale. Si vuole mobilitare un popolo, non lo si mobilita col tartufo, lo si mobilita con un prodotto che è consumato da tutte le classi sociali e che è un prodotto di fabbisogno. Ecco, dottor Giovanni Mantovani, come ha sentito, direttore generale di Verona Fiere, l'ente che organizza anche Vinitaly. Come ha sentito, l'Italia ha una lunga tradizione e abbiamo sentito il contributo addirittura del vino all'unità d'Italia. Però nella produzione del vino noi abbiamo imparato da poco a esportare con grandi risultati. Perché? Beh, perché siamo arrivati più tardi sui mercati internazionali, siamo arrivati, diciamo, prima sull'onda della nostra emigrazione. E siamo arrivati quindi soprattutto sui mercati di grande emigrazione, parliamo della Germania, parliamo degli Stati Uniti, e dove siamo ancora grandi protagonisti, grandissimi protagonisti. Ecco, dottor Mantovani, però i francesi esportano vino dal 1600, noi italiani quando abbiamo cominciato? Solo con le migrazioni? Ma direi che la partita vera l'abbiamo giocata dopo la metà degli anni Ottanta, dopo quello che è stato definito lo scandalo dell'etanolo, che travolse il vino italiano, e devo dire che lì tanti imprenditori, tante aziende vinicole, tanti, come dire, produttori di grandi capacità hanno messo in campo una forza e una capacità di muoversi nel mondo straordinaria. Insomma, una crisi che ci ha fatto del bene. Ecco, quanto pesa il vino nel nostro export? Beh, pesa intorno ai 5 miliardi di euro. Noi produciamo un valore che è pari a circa 12 miliardi e esportiamo agroalimentare per 28-29, adesso poi le statistiche. Quindi diciamo che è praticamente la testa d'ariete dell'agroalimentare italiano nel mondo, o quasi. Oggi direi, insomma, che è il simbolo del nostro Made in Italy agroalimentare nel mondo. Ecco. Ed è un'eccellenza assoluta. Ecco, noi abbiamo detto che il nostro principale competitor da sempre è la Francia. Ecco, quanto ci manca per raggiungere il primato sui cugini francesi? Beh, in termini di quantità il primato sull'export è già italiano. Per raggiungere i valori in termini di fatturato, in termini fatturato ci manca un 30%, e potrebbe essere tranquillamente l'obiettivo dei prossimi anni per il nostro paese. Ecco, ma il salto di qualità si può misurare dal fatto che a fronte di una riduzione di ettolitri esportati nel 2013 il nostro fatturato è aumentato, lì sta la qualità? Beh, lì c'è un segnale, sì, è un segnale che lei va registrato in questo modo, abbiamo fatto pagare di più il nostro prodotto, che è un prodotto di grande qualità, e il mondo lo ha recepito. Lo ha accettato. Questo è un dato decisamente positivo. Ecco, ma sì. Che cosa, dottor Mantovani, che cosa manca al produttore di vino italiano rispetto a quello francese? Manca una storia in tante parti del mondo, perché mentre noi siamo primi in Germania, siamo primi negli Stati Uniti, appunto là dove c'è stata l'emigrazione, come diceva, ma siamo primi anche nei mercati adesso, la Russia, il Nord Europa, quindi i mercati che ci conoscono. In realtà mi è capitato più volte nel grande mercato asiatico o in Cina, per dire un esempio più diretto. I cinesi associano più l'Italia al fashion, più la Francia al wine and food, più la Germania alla tecnologia. Ecco. Allora bisogna cominciare a far capire, capire che Made in Italy vuol dire anche vino. Made in Italy vuol dire anche vino. Anche vino, anche ecco. Vino sì, e sì. Nei paesi del sud-est asiatico questo è lo sforzo da fare? Lo sforzo da fare è principalmente questo. Ci vuole una grande capacità di comunicare, di stare anche per degli anni, magari pensando che i risultati arriveranno fra 5 anni, perché probabilmente servono investimenti di un periodo così importante. Quindi un vino griffato ci vuole? Ci vuole una capacità di far intendere che anche noi, e questo devo dire, l'Expo 2015, che avrà un padiglione dedicato al vino, può anche essere una grande occasione. Una grande occasione. Una grandissima occasione. Senta, sì. Ma l'Africa è una terra da conquistare, è possibile? Beh, l'Africa rappresenta ancora una percentuale molto bassa delle nostre esportazioni, siamo intorno al 2-3% del nostro export, però ha un trend crescente in alcune fasce di paesi, soprattutto i paesi del centro sudafricano, quelli diciamo a tradizione cristiana, per usare una parola sì. Adesso un po' grande, però per esempio troviamo anche il Marocco fra i primi paesi che importano vino dal nostro paese. E quindi è un terreno dove, come dire, si può lavorare. È appena iniziata e si può lavorare. Ecco, dottor Mantovani, Oscar Farinetti, qui da noi a Mix24, ha proposto di fare un marchio unico, chiaro e riconoscibile dell'agroalimentare italiano nel mondo. Lei pensa che è una buona idea? Beh, avere un marchio che caratterizza il Made in Italy agroalimentare sicuramente aiuta, perché identifica facilmente i nostri prodotti all'estero. Senta, il ministro Martina l'ha nominato fra i componenti del comitato scientifico del padiglione del vino di Expo 2015. Un'altra inutile commissione o si aspetta qualcosa? Ma credo che in questi giorni chiuderemo la realizzazione del progetto. Sono molto fiducioso, la riunione è venerdì mattina. Ma cosa vi aspettate di ottenere concretamente? Ma concretamente bisogna fare una realtà di padiglione che sia molto comunicativa, molto coinvolgente, molto appeal, ovvero e la persona che arriva a vedere l'Expo deve tornare con l'idea che deve bere il vino italiano. Ha visitato il padiglione del vino, gli è rimasto fra i 3 padiglioni che ha visitato. Senta, ma il lavoro della commissione finirà con l'Expo oppure andrà avanti? Ma questo spero, intanto non che facciamo un buon lavoro per l'Expo, poi se sono rose fioriranno. Senta, un buon il settore del vino dà lavoro a 1.200.000 persone, più o meno. Sì, ecco, sì, sì. Che è in crescita del 50% negli ultimi 10 anni. Assolutamente. Con circa 450.000 aziende, se non sbaglio. Ecco, no, direi che i dati sono corretti. Sono corretti. Ecco, un'ultima cosa, ci vuole un ministero del vino? Ma no, serve che lavoriamo bene, che utilizziamo al meglio tante risorse che ci sono, che facciamo tanta squadra, e poi è un mondo che anche dal punto di vista del lavoro può offrire tantissime nuove opportunità. Penso che mai come oggi il mondo del vino abbia, in quelle che vengono chiamate le professioni emergenti, tanta domanda. È legato a una voglia di ritorno all'agricoltura? Ma non solo, perché poi c'è una voglia di ritorno all'agricoltura, ma per esempio se io scorro quelle che sono le richieste più ricorrenti delle aziende vinicole, sono professioni molto, molto. molto avanzate. Ma crescono i giovani in quel settore? Sì, sì, export manager, adesso si parla di resident manager, cioè quelli che stanno sul mercato e lo gestiscono per conto di un'azienda. Quindi più nel settore marketing che nel settore molto produzione. Molto marketing e molto, direi, social media network. Ecco, questo... i social media, un'ultima cosa, i social media hanno incrementato il mercato? I social media stanno indirizzando sempre di più il mercato, perché il wine lover, l'appassionato, si orienta sempre di più su questi strumenti. Ecco, prima della pubblicità, una provocazione finale sul vino di Andrea Cernilli, giornalista enogastronomico, e di Giorgio Gaber. Manca un articolo nella nostra Costituzione, cioè che l'Italia è una nazione fondata sul vino, o anche sul vino. Mix 24. Spicchio di luna ormai non navigo più da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese da scappare via. No, non voglio abbandonare i miei ricordi. E allora? Pietrangelo? E allora, siccome c'è sempre un pazzo con le mesce a raccontare la notte, ogni mattino, come anche questa mattina, si trascina dietro il ricordo della notte trascorsa. E succede che non è stato un incubo, ma un pensiero, e le tenebre non hanno sbranato le stelle, perché il buio va a sciogliersi in una virgola, la luna appunto, e siccome si avvicina il momento della notte del destino, sono molti, moltissimi quelli che in questi giorni stanno col naso puntato verso la luna ad aspettare quello spicchio che apra il mese. Stelle, lampioni, non saprei, spicchio di luna questa notte dove sei? Beh. Tutto sto giro per dire che giugno sta finendo. No, sì, sta arrivando un mese importante, caro Mario. Sta arrivando un mese importante, che è grande festa. E lo sai cos'è la notte del destino? È quando in cielo si aprono le porte e arrivano le benedizioni. E cosa comincia? Il Ramadan. Ah, eccolo lo lì. Sapevo. Ci siamo. E bolle! E senza benzina o gasolina. Soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Vabbè, da Sergio Caputo a Rino Gaetano, in fondo sempre di buona musica si tratta. E restiamo pure in effetti in terreno medio orientale, perché voglio riprendere un po' il filo delle cose irachene. Ci sono grossi sviluppi sul campo, anche delle ultime ore. Allora, intanto l'ISIS, cioè il gruppo, i miliziani sunniti che sono partiti dalla Siria e hanno ormai preso gran parte del territorio iracheno, hanno anche preso il controllo della più grande raffineria dell'Iraq. E la raffineria di Baiji sono 130 km a nord di Baghdad. Giovanni produce il 60% della benzina dell'Iraq. Accidenti. 310.000 barili di prodotto al giorno. Sul campo la situazione è terribile, vedevo l'ultimo Situation Report che pubblica l'Istituto per lo Studio della Guerra, molto interessante. E ci cosa sono, diceva? Ci sono scontri ovunque, ma l'esercito iracheno è un disastro totale. Non sono istruiti, abbandonano i posti di comando e osservazione. ISIS avanza quasi ovunque. La raffineria è caduta quasi tutta in mano ai ribelli e il governo di Al-Maliki ha provato a difenderla, ma senza successo, e vedevo adesso hanno reiterato la richiesta di un intervento aereo degli Stati Uniti. Infatti, il problema è che alla Casa Bianca, come dicevamo, non sanno che pesci pigliare. O meglio, Obama non sa che pesci pigliare. E insomma, il dilemma è to bomb or not to bomb. Esattamente. Poco amletico, molto concreto, ahimè, è drammatico, però è così. Lunedì sera Obama dovrebbe avere le carte per decidere, cioè tutte le opzioni. Sì, ma bombardare senza intelligence, appunto. Bombardare senza intelligence dalle mie parti è impossibile. O meglio, è possibile e poi fai i disastri che conosciamo. Purtroppo l'intelligence non c'è, per cui... Bisogna che prenda immediatamente contatto con il colonnello Benson del SIC. Avanti, slegatemi. E chi è questo SIC? Security Intelligence Command. Ah, ma allora è un agente segreto. Un agente segreto? E che mi dice che non è un cinese travestito da americano per far capire che lui è cinese e invece si è travestito da cinese per far capire che è un agente americano? Andiamo cercando di sdrammatizzare un po' con Ciccio. Ma c'è Franco, l'ulteriore battuta, ve la ricordate? No. Attento Ciccio, che se no ci accusano di intelligenza con il nemico. Franco, a noi di intelligenza non ci può accusare nessuno. Vabbè, chi comanda in Europa secondo voi? Chi comanda? Non possiamo nasconderci sempre! Neanche mimetizzarci! Questa non è l'Africa! Oh, a che serve? Ditemi in che modo degli animali extra large come noi possono riuscire ad attraversare tutta l'Europa senza attirare l'attenzione! Allora, questo era Madagascar, no? Ricercati in Europa. Per Ciccio e Franco. La cosa dei ricercati in Europa di Madagascar la stiamo usando perché, insomma, si dovrà pur comporre questa nuova commissione e dovranno decidere sulla presidenza. Ieri ne hanno parlato, no? Sì, hanno parlato. Qua David Cameron sta cercando di creare un fronte anti-Juncker, però in realtà Renzi e Hollande mi sa che finiranno per appoggiare la Merkel. Lo scambio dovrebbe avvenire la prossima settimana sulla base di questa, diciamo, di questo accordo. Tu dai un relax alle politiche sull'austerità e noi ti votiamo il tuo Juncker alla presidenza della Commissione. Juncker è una, diciamo, sorta di continuità, per molti non va bene proprio per questo, però tu conosci i tedeschi, no? Non è che mollano facilmente, mollano l'osso. Assolutamente. Quindi Merkel secondo me cercherà di imporre il suo candidato. Credo che la prossima settimana sarà quella decisiva per votarlo. E vediamo un po' come va a finire e come continua invece la nostra quota rosa. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero. Eccomi, cambio argomento, però in fondo non lo so. Questa canzone la trovo bellissima perché mentre l'ascolto mi immagino come se fosse un film, no? Un'immagine che si sussegue perfetta dopo l'altra. E penso, la libertà e la passione alla fine, Giovanni, fanno paura, soprattutto a tutti, e ce ne sono tanti, che sono tutti quelli che sono schiavi della loro vita. E poi i pregiudizi, perché sostituiscono la comprensione vera della realtà? Me lo spieghi? Non tu, spiegacelo tu, che ti sei lanciata in questo approccio filosofico. Ma che è, tutti filosofici. Ma capito, ma che cosa è pazzesco. Comunque, se qualcuno vuole essere filosofico, lo potrà essere nella seconda ora, perché raccontiamo la storia di Fabrizio De André. Gesù nel tempio si fa la gente da buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai Tardelli stata magheggia. Senza mai figli. Oramai Tardelli, ma scusa, Tardelli, ma è la Spagna che è uscita dai mondiali, non vuoi dirci niente? Meraviglioso. Io dico, finalmente la sconfitta nello sport è stata celebrata sul serio, perché è importante anche la sconfitta, vedere questi grandi che hanno vinto due europei, un mondiale, poi anche perdere, quella è vita. Cioè abbiamo il nostro esperto di calcio. È un segno, un segno metafisico, perché il re ha abdicato. Hai visto che serve la filosofia, Mario? Tu ricordati che su quella sulla consorte hai dato un'ampia immagine in un tuo libro. Ricordo. Quindi, allora, adesso allusioni contro allusioni. No, ma se vuoi la raccontiamo. No, intanto è morto il tiki taka. Questo è il dato. Per adesso. Rinascerà? Beh, può darsi con i nuovi giovani. Quel gioco lì va bene. A me piace. Ti piace? Sì. Va bene, allora viva il tiki-taka. Una specie di tuca-tuca? No, non è. Col pallone, sì, col pallone. A Raffaella Carrà col pallone. Si arriva in porta attraverso una ragnatela di mille passaggi e poi bisogna intuire il momento dell'imbucata. Va bene, e allora andiamo avanti con il nostre bolle. Ah no, abbiamo il salamino. Continua il debello fittico, dice Raffaele Fitto. Con pazienza e senso di responsabilità decido di rinviare il mio appuntamento per risparmiare ai nostri elettori uno spettacolo che non merita. È successo che doveva andare a fare una manifestazione a Milano dopo quella di Napoli, che ha dovuto far saltare perché nel frattempo il suo partito ne ha organizzato un'altra, è saltata quella di Milano e il partito obietta, fa tutto da solo, non ci informa. Però la questione è sempre quella. Berlusconi non gradisce Fitto, altro che primaria a tutti i livelli come chiede lui. E poi dice non era in calendario. Berlusconi non gradisce, la storia si ripete, un uomo solo è al comando, si aggiorna soltanto il motto e perciò lo slogan è questo: credere, obbedire, calendarizzare. Non c'era combattere. Scusa, calendarizzare? Eh sì, perché dice non era in calendario. Una stamattina sui calendari anticipati, i delitti, com'era? Ah, è bellissimo. Com'era quella? Com'era la storia dei delitti d'agosto, non me la ricordo tutta. Com'era? Vabbè, ma no. È meravigliosa. Vabbè, il grande, unico, meraviglioso Ottavio Cappellani ha detto: il governo Renzi va così veloce che quest'anno i delitti di agosto si portano in giugno. Pubblicità. Mix 24. Canzoniere. Capitano incertezze stamattina e allora andiamo col canzoniere. Oh sì, io me lo dico, tra poco sarà tutto finito. Abbiamo visto abbastanza, 65 anni e passa davvero che ti può fregare della più peggio arcibomba HZY, aria fritta, briciole, solo orribile il sentimento di aver perduto così tutto il proprio tempo, altro che megatoni di sforzi. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, per chi indovina Mario la bolla. Mondiali. Oh, a me piace sta qua, nei Pitbull, mica male. Allora, oggi c'è una bella partita, un bello scontro, perché Grecia e Giappone in campo. E sono due metafore, secondo me, dei tempi che corrono. La Grecia salvata dalla troica, ma affondata dall'austerità. Il Giappone di Shinzo Abe, che ha varato una politica monetaria ultra espansiva. Quindi due modelli diversi di affrontare la crisi oggi si incontrano sul campo di calcio. Lo saranno anche con il pallone, due modelli diversi. Che dici? Vediamo. È però interessante. Sì, perché sai, il calcio è una metafora della politica e dell'economia. Propone delle nuove sfide e quindi mi incuriosiva questa cosa. 800 24 00 24, 349 238 6666. Vuoi un aggiornamento? La risposta dei salamini, un aggiornamento veloce. L'Arsenal ha proposto a Mario Balotelli un ingaggio da 11 milioni di euro all'anno. Beato lui, sentiremo quello che dice il suo procuratore Raiola. Salamino. Ancora salamini che vanno di fretta. Dunque, Cristina Parodi va alla conduzione della Vita in diretta. Oh, 20 anni di questioni, 20 anni di discussioni, 20 anni di preoccupazioni che la mediasettizzazione dell'azienda di Stato. E poi come va a finire? Che la RAI di Matteo Renzi, che poi oltretutto non è di Matteo Renzi, ma immediatamente si è fatta prona a Renzi, diventa una super canale 5 ed è la prosecuzione del biscione in interposto cavallo ed è tutta velocità, che il volto soave, bello della signora prima First Lady di Bergamo diventi adesso il volto di Rai 1, no. È la prova che non c'è bisogno di comandare. Ma che strano. Non c'è bisogno di comandare in Italia. Fanno tutto immediatamente. Tutto da soli. Tutto da soli. Manco la buonanima. Neanche una telefonata. Tutto questo. E quando dico buonanima ci siamo intesi. E che bravo allora. Ma posso fare... Poi. Posso dire una cosa? Certo. Posso ripetere di Puoi nuovo? Puoi ripetere se vuoi. Posso ripetere, Ottavio Cappellari? Ah, sì. Beh, quella è troppo forte. Dai, ripetila. Rifalla. Il governo Renzi va così veloce che quest'anno i delitti d'agosto si portano in giugno. E anche le trasmissioni in TV allora. Professor Simonelli, buongiorno. Ci sarà da lavorare per lei l'anno prossimo. Sì. Sul canone. Tutta trovare il canone. Tutta la TV renziana. Scoprire il canone. Allora... Buttafuoco è troppo severo, troppo cattivo. Sì, ma Buttafuoco fa la sua parte, no? Queste cose. Ecco. Allora, sentitevi invece per rilassarvi questa voce. Sentitevela bene. Mi chiede che ho sognato e io ho raccontato i sogni. Poi per esempio mi dice, tu da piccolo hai avuto paura di qualche situazione, sei scappato davanti a quello? Io dico, no, non sono mai scappato. Hai mai visto tuo padre e tua madre fare l'amore? Quando eri piccolo e sei scappato? Allora io dico, no. Lui dice, no, non l'hai mai visto? Dico, no, non sono mai scappato, perché io ci andavo apposta a guardare. Hai capito? Beh... Questa è una che meraviglia, più belle, sì. Più belle battute sulla psicanalisi, è la parodia della scena primaria che fa Troisi in Le vie del Signore sono finite. E ieri sera allora il canone era su Iris perché ha fatto di nuovo una serata a Troisi con due film di Troisi, ovviamente Troisi regista, Le vie del Signore e pensavo fosse amore, invece era un Calesse, e quindi insomma un omaggio a Troisi, ma un omaggio fatto attraverso i film che abbiamo già detto altre volte, insomma sono poi gli omaggi migliori quelli che fanno serate cinema, ecco. Professore Claudio da Roma dice che lei deve fare attenzione perché l'esuberanza della Tardelli la rimbambisce. Può essere. Ha può capito? Essere, deve fare essere. Molta attenzione. Allora vi dico un'altra cosa, no? Adesso senza esagerare, perché ieri sera il canone parlava appunto di esuberanze femminili, che effetto fanno sugli uomini, perché Paolo Rossi recitava su Rai 5 l'Odissea, e era l'episodio della maga Circe e di Ulisse che rievoca il passaggio della sua nave davanti alla maga Circe. Allora lo farò anch'io come Ulisse quando parla da Tardelli, che dite? Sì, sì, certo. la cera. Certo. Allora, canone sparso. Professore, intanto mi raccomando, nel weekend lei deve vedere il programma di Pascal Vicedomine. Sì, ma ho scoperto perché non lo vedevo mai. Perché? Perché il venerdì sera, è il venerdì sera, mi sono reso conto, e il venerdì sera mi prendo una serata di libertà. Vabbè, questo venerdì al lavoro. Niente giorno libero. Allora, ancora una segnalazione di ieri sera. Sì, certo. Perché ieri sera è proseguita la serie di Doc 3, la serie di documentari trasmessi da Rai 3, e c'era un documentario un po', come dire, inquietante, imbarazzante, documentario israeliano, la storia di un ragazzo, The Good Son, che dice alla famiglia, una famiglia tradizionalista, di andare a fare una ricerca per la tesi, per il dottorato, e invece va in Thailandia a cambiare sesso, una storia davvero, quelle che si dicono estreme. Ah, estreme. Intanto c'è un tweet sul per lei, professore? Sì. Su Twitter dicono che il canone era su Lezione di mafia di Grasso su Rai Storia. Aia. E l'altro giorno invece Orgoglio e Pregiudizio. Orgoglio e Pregiudizio. Molto meglio. Direi. Professore. Insomma, come dice lei, tante teste, tante... Comunque, a quanto pare di canone ce n'è in giro. Ce n'è tanto, ha visto? Io ne ho dati tre. Ma due adesso... arrivano via tweet. Insomma, sì. Adesso scusa. cominciano posso? I dirigenti della RAI a riunire gli intellettuali. L'hanno cosa chiamata, professore? No, aspettavo una chiamata. Come dice, è lì tutti convocati tranne me. Scusi, professore, per caso ha visto invece quello spettacolo televisivo molto bello della Boldrini, Lezioni di sbarco? Pure quello. Comunque ne parleremo più avanti, ma Buttafuoco deve stare molto attento il weekend. Buttafuoco deve riflettere cosa succede su Rai 3. Torna e lo diciamo domani. Va bene, domani parleremo di Vuoi quello. Un aggiornamento? Sì, dammi un aggiornamento. Allora è importante perché l'avevamo preannunciato ieri, tra l'altro. L'Argentina ha detto che è impossibile pagare i titoli in scadenza il 30 giugno. È un preavviso di default. Bruttissima notizia. Brutta e pericolosa. Sì. Ebbene, allora prima di chiudere ricordo che dopo la pubblicità il giornale radio andrà in onda La storia di De André di Chiara Chiara Tiezzi, a cura come sempre di Marina Milone.